versione di Oscar Giannino. Speciale Bruxelles. Buon pomeriggio, si fa per dire naturalmente cari ascoltatori di Radio 24, è toccato a me e a Alessandro Milan stamattina a darvi le prime notizie che ci arrivavano da Bruxelles, delle bombe che esplodevano all'aeroporto e poi alla metropolitana, e da allora Radio 24 non ha mai sospeso un secondo di darvi gli aggiornamenti con questa giornata di speciali, e ovviamente i colleghi del giornale radio e i conduttori insieme vi propongono per tentare di capire l'evoluzione dei fatti, degli accertamenti e naturalmente anche di capire quale sarà poi il numero finale delle vittime. Attualmente siamo ancora a una stima di 34, però sono molti, moltissimi feriti, sapete, anche ve lo stiamo proponendo sistematicamente attraverso la voce dell'ambasciatore italiano a Bruxelles, ci sono anche degli italiani, pare, non feriti gravi, e con me qui Simone Spezia, che naturalmente prego di interrompermi quando è necessario e tutte le volte che vuole per gli aggiornamenti. Grazie, grazie Simone. Allora, noi iniziamo a queste ore di distanza dai fatti a poterci porre alcuni interrogativi, e quindi avremo degli ospiti a cui fare delle domande. Io vi richiamo solo due cose. Il primo è il conto totale delle vittime europee per gli attentati jihadisti, perché il conto è abbastanza spaventoso, ma ricordiamocelo, perché i 34 morti, speriamo che questo si fermi la cifra di oggi, di questo 22 marzo 2016 a Bruxelles, vanno sommati ai 192 morti di Madrid del 2004, ai 52 morti di Londra nel 2005, dalle 12 vittime a Parigi 2005 e ai 130 morti di Parigi 2015 tra Salio e Bataclan. Il totale fa 420 morti a oggi del terrorismo jihadista in Europa, quindi è una cifra, devo dire, spaventevole. In questa ultima mezz'ora su alcuni siti di informazione e dei giornali belgi, quindi notizie all'ultima ora, appaiono alcuni fotogrammi di filmati che riprendono a quanto pare alcuni dei sospettati all'interno dell'aeroporto in cui è avvenuta la prima esplosione. Sapete che si parla di la prima esplosione da parte di un kamikaze, una seconda bomba che poi è esplosa all'interno dell'aeroporto, un terzo ordigno che sarebbe stato poi identificato ma non esploso, e siamo quindi ai sospettati. Dei sospettati almeno 5, due sappiamo già chi sono, e quindi vediamo un secondo di ricordarci chi sono, perché fanno parte esattamente della rete di coloro che al fianco di Salah sono stati protagonisti dell'attentato a Parigi al Bataclan, e che ancora non sono stati presi dalle forze di sicurezza del Belgio e di quelli francesi. In particolare i due maggiori sospettati sono Najim Abrini e Najim Lakraoui, che è conosciuto anche con un altro nome, Soufiane Kayal, che però è un falso nome. Chi sono queste due persone? Sono il primo, Abrini, è un trentenne, ed è un trentenne di origine marocchina ma di nazionalità belga, amico fin da quando era giovane di Salah Abdeslam, che sapete è stato preso pochi giorni fa, e che è stato filmato insieme a Salah verso la strada verso Parigi alla guida di una Renault Clio che era stata affittata e che quindi ha cooperato come squadra logistica, diciamo, quantomeno agli attentati di Parigi. E, mentre invece Lakraoui, Najim Lakraoui, è considerato uno dei più esperti a quanto pare nel confezionare bombe ed esplosivi, è un 24enne, e il suo DNA è stato ritrovato in molti reperti, sia in vestiti dei kamikaze o dei terroristi che hanno condotto l'azione al Bataclan, sia all'interno del teatro Bataclan. Quindi di sicuro queste due figure, ma è ovvio che gli attentati di oggi presuppongono una rete non dico vastissima, ma più ampia di queste due figure. Quindi si parla di almeno 5 persone, e gli interrogativi sono sul fatto se davvero questa azione di oggi sia in reazione al fatto che le forze di sicurezza del Belgio abbiano finalmente preso pochi giorni fa Salah Abdeslam, oppure se invece fosse un'azione, come è più probabile, che fosse preventivata comunque magari vicino alla Pasqua e poi accelerata per via dell'arresto di Salah. Molti interrogativi sul fatto che già esperti di diversi paesi internazionali in materia di sicurezza e terrorismo, sulle scarse misure di sicurezza all'aeroporto di Bruxelles. All'aeroporto Bruxelles si accede senza mostrare prima né i biglietti né il passaporto. Nella hall non ci sono dispositivi di sicurezza tipo scanner e telepass. E a dire la verità non ci sono neanche negli aeroporti italiani, ecco, inizia a porsi il problema se invece misure rafforzate come quelle che ci sono in molti altri paesi del mondo non siano necessarie, visto quello che è accaduto oggi purtroppo. Allora iniziamo a vedere, avete sentito nel frattempo le parole del Presidente del Consiglio. Le parole del Presidente del Consiglio sono state un appello a un patto di libertà e sicurezza in Europa. Il Presidente del Consiglio ha sentito nell'arco della giornata sia il Presidente Hollande, la Cancelliera Merkel, Juncker, il Premier belga. La polizia di Bruxelles ora informa che dispone delle foto dei tre attentatori e che forse due sono morti e che il terzo è ricercato. Stiamo parlando del nucleo che avrebbe operato l'attentato all'aeroporto di Zaventem. Due di cui vedete appunto i fotogrammi sui siti sono vestiti in abiti scuri e secondo gli inquirenti però si sarebbero fatti esplodere o sarebbero comunque morti nell'attentato, mentre il terzo dei cinque più o meno di cui si parla sarebbe ancora ricercato. Questo spiega perché Bruxelles è blindata, perché tra Francia e Belgio sia stato chiuso il confine, eccetera, eccetera. Allora, vediamo intanto. Vai, Simone. Allora Oscar, ti interrompo solamente per questo. Allora tu parlavi di sicurezza aeroportuale, ebbene arrivano adesso notizie esattamente dagli aeroporti romani e a quanto pare verranno destinati più uomini e risorse interforze alla sicurezza di Fiumicino e Ciampino. Il dispositivo di sicurezza che già da novembre aveva standard piuttosto elevati in seguito evidentemente agli attentati di Parigi è stato rafforzato con più agenti di polizia, carabinieri, militari della Guardia di Finanza e ovviamente addetti aeroportuali. Ci saranno anche unità cinofile per controllare che non ci siano esplosivi nei bagagli, unità cinofile evidentemente addestrate allo scopo. L'altra notizia che ti volevo dare e te la do per dare l'idea di quanta confusione circoli in questo momento in una situazione come questa in Belgio. Il Metropolis Cinema di Anversa è stato evacuato su ordine del centro di crisi belga. Si tratta di una misura precauzionale, non ci sarebbero minacce dirette, però nell'arco della mattinata e in questo primo pomeriggio ne abbiamo viste circolare di tutti i tipi, a partire dall'evacuazione di una centrale nucleare che poi in realtà si è capito che si trattava di una procedura standard. La stessa stazione di Anversa per un breve periodo questa mattina è stata chiusa. Evidentemente c'è un tema che riguarda quello di cui in parte parlavi tu all'inizio, ossia la ricerca degli uomini che avrebbero messo a punto questa serie di attentati e che sta spingendo la polizia ad approfondire le ricerche, ad effettuare delle operazioni precauzionali per evitare presumibilmente uno scenario parigino, appunto. Allora tenete conto che le persone di cui vi ho parlato prima, cioè i due sospettati numero uno, sempre che non siano loro poi identificabili nelle immagini che vedete girare sui siti riprese all'aeroporto prima dell'esplosione, stiamo parlando almeno in un caso, cioè quello di Lacroix, quello che vi ho detto essere il sospettato numero uno del confezionamento di esplosivi, di gente che è di cui è documentata la presenza in Siria in questi recenti anni. Nel caso di Lacroix sicuramente nel febbraio 2013, per tornare poi in Europa sotto il falso nome, appunto, in cui alcuni giornali lo presentano, poi di Soutane Kayal. Quindi stiamo parlando esattamente di quel vasto filone che dal Belgio, il Belgio sapete è uno dei serbatoi più prolifici di foreign fighters per l'ISIS, il ritmo mensile stimato era intorno a 15, adesso le autorità belghe dicono che sarebbe sceso da novembre a oggi intorno però a 10, quindi comunque è un numero significativo, per così dire, nel cui ambito, innestato sul filone salafita che nella comunità musulmana estremista jihadista belga era precedente al fenomeno dell'ISIS, ha finito per alimentare quindi questo bacino molto significativo, non solo di simpatizzanti ma di militanti con esperienza sul campo di addestramento militare ed esplosivi. Allora il primo ospite che è con noi è appunto il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi. Grazie di essere con noi, Pietro. Buon pomeriggio a tutti. Allora, tu stamattina, dopo un paio d'ore, hai scritto una prima nota in cui dicevi che gli attentati di questa mattina, kamikaze e bombe, nel caso della metropolitana a Bruxelles, erano comunque un salto di qualità. Cioè, chi potesse pensare o immaginare, avesse immaginato dopo il Bataclan di nuclei sì numerosi, ma insomma con un'organizzazione abbastanza approssimativa e che pure ha bucato per mesi le forze belghe, in caso di questi episodi deve immaginare invece dei nuclei pronti a scattare in tempo rapido, che hanno gli strumenti per farlo, gli esplosivi per farlo, che hanno una filiera logistica in grado di dargli accoglienza e sostegno e poi magari di nasconderli. Quindi insomma un salto di qualità, Batacchi? Un fenomeno, direi un fenomeno senza precedenti. Qui siamo di fronte a una profondità che per la gran parte ci è ignota, siamo di fronte a una struttura, tant'è vero che a mio avviso sarebbe opportuno smettere di parlare di cellule, ma iniziare a parlare di filiere terroristiche, di strutture terroristiche che sono radicate in alcune aree ben precise del continente europeo. Questa è la realtà che mi pare appaia da questi attentati di oggi di Bruxelles. Aggiungo una nota: se gli attacchi di Parigi, pur nella loro dimensione e drammaticità, risultarono in un sostanziale fallimento per ciò che concerne la parte relativa ai kamikaze, se ricordate, questo fallimento oggi purtroppo non c'è stato, e per questo parlavo di salto di qualità. Qui ho la sensazione che ci siano stati confezionati ordigni più performanti, con esplosivi più stabili, per cui ancora una volta ritorna il tema della logistica, ritorna il tema del supporto che questa organizzazione ha sul terreno, e in ultima analisi appunto quella del radicamento delle cellule jihadiste, delle strutture jihadiste in Europa. In particolare questi episodi dimostrano che lo Stato islamico non è solo circoscritto alla Siria, all'Iraq e in alcune parti della Libia, ma lo Stato islamico è una realtà strutturale all'interno del territorio europeo. Tu hai scritto testualmente, bisogna fare le cifre anche se sono abbastanza preoccupanti, cioè leggo: centinaia di adepti operativi tra pianificatori, logistici, gruppi di azione, gruppi di fuoco, più un'area di fiancheggiatori simpatizzanti composta da qualche migliaio di individui. Questi sono i numeri che stimi. Ma questi sono numeri stimati che dipendono dall'analisi della situazione, dalla frequenza degli episodi, dall'intensità e dalla dimensione degli episodi, dal numero di episodi che comunque le autorità di sicurezza riescono a sventare. Per cui tutto questo mi fa ritenere che oggi in Europa esiste una struttura composta appunto da centinaia di individui operativi, quindi componenti per gruppi di fuoco, logistici, elementi che confezionano esplosivi. Qui non si può parlare più, a mio avviso, neanche del singolo bombarolo. Qui bisogna parlare di artificieri. E qui sono tutto tranne che lupi solitari. Aspetta che Simone voleva aggiungere una cosa. Oscar, proprio a proposito di quello che ci diceva Batacchi, in merito alla capacità operativa e alle capacità da un punto di vista anche della realizzazione degli esplosivi, la Libre Belgique, uno delle fonti di informazione belghe che stiamo consultando di più in queste ore, riferisce che nella foto che citavi all'inizio, quella nella quale si vedono questi due uomini spingere i carrelli, entrambi indossano un solo guanto alla mano. Ora, l'ipotesi è che questo guanto di fatto contenesse il detonatore delle bombe che poi sono esplose all'interno dell'aeroporto. Evidentemente nulla di artigianale, insomma, ecco. No, appunto, e poi soprattutto io sottolineo quello che Batacchi diceva prima: sembra che ci sia un livello di preparazione, di approntamento dei materiali migliore di quello del Bataclan, ecco, a prescindere dalle vittime, però è così? Sembra di sì, dalle prime informazioni, dalle prime immagini che possiamo vedere, che possiamo studiare, analizzare, sembra di sì, perché ribadisco, a Bataclan, a Parigi in generale, ci fu un sostanziale fallimento della, della parte di azione condotta dai kamikaze. Oggi non è così. Per l'appunto poi siamo anche in presenza di ordigni, e quindi non cinture esplosive, ma di ordigni probabilmente anche comandati a distanza o regolati da timer, per cui qui, come dicevo prima, si torna a un concetto di preparazione che è molto strutturato. Senti, ti chiedo anche una considerazione sul rapporto tra l'attività di intelligence a cui ha fatto riferimento, spiegandone il potenziamento tra servizi di intelligence nazionali che ancora a livello europeo sono troppo compartimentati e cooperano poco, sappiamo anche quanto cooperino poco persino quelli di Belgio e Francia tra loro, e invece il quadro sul campo, innanzitutto a cominciare dalla Libia. L'atteggiamento italiano è quello di tenere le due questioni separate, per così dire. È corretto secondo te? A mio avviso sì, per il semplice motivo che il terrorismo che si è manifestato prima in Francia e poi oggi a Bruxelles denota una ricerca evidente di consenso in quelle giovani generazioni islamiche europee che ancora non hanno abbracciato l'idea islamista radicale e legata allo Stato islamico. Io ho la sensazione che questi attentati, più che a forme di reazione rispetto a dinamiche in atto in alcuni contesti come appunto quello siriano o quello libico, rispondano proprio a questa esigenza, ovvero a dimostrare la forza della capacità di un'organizzazione e di un'ideologia che a mio avviso rispetto a quella caidista è completamente diversa. Va bene, allora intanto noi ringraziamo Pietro Batacchi, il direttore di Vista Italiana Difesa, torniamo tra un minuto. JP Morgan Asset Management vi presenta la versione di Oscar speciale Bruxelles. Eccoci qui, tornati in diretta, Oscar Giannino e Simone Spezia, per la lunga diretta necessaria, obbligata, e speriamo di nel frattempo di non dovervi aggiornare anche sul numero complessivo delle vittime per gli attentati di stamattina di Bruxelles. Quali aggiornamenti ci sono? Allora, ce ne sono un paio e tutte e due ci sembra piuttosto rilevanti. Allora, la prima è la rivendicazione ufficiale dell'ISIS, nel senso che noi avevamo avuto questa mattina delle informazioni che arrivavano da un importante quotidiano egiziano che citava fonti dell'ISIS su Telegram, che è un sistema di messaggistica. Adesso, tramite uno dei loro mezzi di informazione, perché di mezzi di informazione nella sostanza dispongono, è arrivata la vera e propria rivendicazione. Una rivendicazione nella quale si parla appunto degli attacchi anche con cinture esplosive, e soprattutto si dice alla fine il Belgio è stato colpito perché partecipa alla coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Quindi non sarebbe contro l'Europa, ma contro nella fattispecie, almeno questo secondo questo comunicato dell'ISIS. Dall'altra parte però ci arriva un altro elemento. Crediamo che la fonte sia la Associated Press, l'agenzia che la batte, l'ANSA, dice che secondo fonti dell'intelligence di Baghdad gli attentati contro l'aeroporto e la stazione della metro sono stati pianificati 2 mesi fa a Raqqa in Siria, ma che inizialmente non era indicata Bruxelles tra gli obiettivi iniziali. La capitale belga è finita nel mirino dei terroristi a causa dell'arresto di Salah Abdeslam. Quindi questa fonte dell'intelligence irachena confermerebbe quello che si diceva sostanzialmente all'inizio. Allora, ci ha raggiunto, e noi lo ringraziamo di questo, Lorenzo Vidino, che è qui in quanto direttore del programma sulle forme di estremismo radicale presso la George Washington University di Washington DC. Buon pomeriggio e grazie, Vidino. Buon pomeriggio a voi. Allora, due domande. La sua valutazione sul livello di apprestamento della sicurezza in un posto come l'aeroporto di Bruxelles, la prima. La seconda, come mai a distanza di tanto tempo, mesi e mesi, siamo ancora in presenza di un paese, il Belgio, di cui mesi e mesi fa dicevamo è uno dei più potenti focolai di foreign fighters tornati indietro dalla Siria, però pare che siamo ancora in quelle condizioni. Come mai? Allora, partendo dalla prima, difficile valutare al momento, bisogna vedere la dinamica esattamente dell'attentato, però pare che gli attentatori abbiano avuto accesso solo alla parte pubblica dell'aeroporto, quindi al bancone del check-in. Sì. E quindi o uno fa un primo cordone all'entrata proprio dell'aeroporto, come c'è ad esempio in Turchia o in Israele, paesi che hanno anche in India, anche a Delhi funziona così, per esempio. in paesi dove esiste comunque una minaccia terroristica da decenni fortissima, e quindi se uno va all'aeroporto di Istanbul ci sono due controlli di polizia, di sicurezza, uno proprio all'entrata dell'aeroporto e poi uno quello normale quando si accede ai gate. In nessun paese europeo è così, è chiaro. Forse bisogna iniziare a pensare di farlo. Probabilmente questo dibattito partirà, anche se ricordiamoci un pochino con un po' di memoria storica che attentati del genere li abbiamo avuti anche in Italia. Ricordiamo l'attentato a Fiumicino negli anni '80, la dinamica era quella, il banco delle linee aeree nella parte del check-in, nella parte aperta a tutti, al pubblico. Quindi o si militarizza o, chiaro, c'è sempre questo bilanciamento tra le esigenze di una società aperta e quella della sicurezza, e quindi chiaramente si aprirà un dibattito e vedere chiaramente i costi sia dal punto di vista proprio economici sia anche psicologici di cambiare quelle che sono delle procedure normali. Insomma, i nostri aeroporti sono diventati militarizzati dall'11 settembre e chiaro, non si finisce più a un certo punto. Certo. Però si potrebbe immaginare, ripeto, biglietto alla mano e passaporto e poi fare lo scanner invece quando si va al gate. Però insomma, si vedrà. Certo che è un problema rilevante perché pone la questione in tutta Europa. Sulla questione invece foreign fighters, accertamenti, forze di polizia e sicurezza e cooperazione in Europa, non ci siamo molto, direi. No, il Belgio è uno dei problemi, è uno dei paesi con i maggiori problemi, direi che non è l'unico, però la situazione è agli occhi di tutti, se ne è parlato dopo Parigi, un paese in cui c'è una comunità di intelligence e polizia, di forze dell'ordine molto ridotta, con degli effettivi, delle risorse molto ridotte, con un problema invece di radicalizzazione. Conta anche, mi scusi, come dicono alcuni, io stesso penso di sì, purtroppo, perché io sono un sostenitore dei tipi di governo federale decentrati, però conta anche il fatto che nella gerarchia, nella cooperazione interna delle forze di sicurezza tra polizia locale e, diciamo così, organizzazione tra fiamminghi e valloni, un problema proprio interno di cooperazione non solo internazionale con i francesi e con gli altri, ma anche a casa loro proprio. Sì, assolutamente. Esistono delle strutture a livello federale, cioè la Sûreté de l'État, che è l'intelligence belga, opera a livello federale. Esiste una struttura di coordinamento che si chiama OCAM, che opera a livello federale, che trascende quindi queste divisioni. Però a livello locale, e chiaramente anche a livello locale che si fa l'antiterrorismo, esistono già solo a Bruxelles decine di forze di polizia che non si parlano, che hanno queste rivalità appunto linguistiche, etnico-linguistiche, riflettono le tensioni dello Stato belga, e chiaramente creano un ambiente ideale per il terrorismo, perché non si ha questa comunicazione interna. Giustamente lei ricordava i problemi di comunicazione esterna, le tensioni che ci sono state ad esempio con la Francia per una mancata collaborazione da parte delle autorità belga, e quindi vediamo una situazione, ma è più che altro anche una mancanza di effettivi, di risorse. Gli operativi, gli uomini che hanno i belgi dedicati al terrorismo sono pochi, sono stati aumentati negli ultimi mesi, ma sono pochi, sono pochissimi, a fronte di un problema che è sproporzionato. Il Belgio è il paese che proporzionalmente fornisce il numero più alto di foreign fighters, 600, chiaramente è impossibile monitorare tutti questi soggetti. Il caso Abdesalam ci fa anche vedere come esiste un livello di connivenza o di omertà a livello di comunità, perché è chiaro, senza fare tutto un erba un fascio, però è chiaro che parte del quartiere, parte della comunità abbia coperto Abdesalam, e quindi anche altri soggetti che a diverso modo fanno parte dei network legati all'ISIS, è chiaro, rendono questo un problema ancora più grande, una certa impenetrabilità di comunità che hanno livelli di simpatia per il mondo jihadista. Quanto è necessario avere una filiera verticale integrata che ha le radici? Leggevamo prima le fonti irachene che ci identificavano in Raqqa, in Siria, l'origine delle istruzioni. Quanto sarebbe necessario una verticale integrata occidentale che da Iraq, Siria, Libia porti direttamente alle forze di intelligence sul territorio? Manca a livello di intelligence nostra, chiaramente una penetrazione profonda, chiaramente non sappiamo quello che non sappiamo, quindi a livello di analisi è difficile sapere quello che esattamente che le nostre intelligence stanno facendo, però è chiaro che non abbiamo un livello di penetrazione profondo delle strutture dell'ISIS. Il fatto che gli attentatori di Parigi potessero fare avanti e indietro ripetutamente tra l'Europa e la Siria e pianificare ci dimostra che non esiste un livello di penetrazione. Quello che stiamo vedendo a livello di ISIS è che si è passati da attacchi semplicemente motivati, ispirati, dall'ISIS, ma perpetrati da attentatori senza alcun legame operativo e funzionale al gruppo, a attacchi perpetrati dal gruppo. Quelli di Parigi sono così, avevano questa dinamica strutturata. Ci sono motivi per pensare che questi attentati di Bruxelles anche abbiano lo zampino dell'ISIS anche da un punto di vista operativo e non solo di ispirazione ideologica. Sì, sì, proprio di coordinamento e istruzione diretta, per così dire. Oimè, e poveri. Ci sono elementi che lo fanno pensare, chiaramente lo vedremo nei prossimi giorni, però sembra ben di più dell'attacco compiuto da uno o due disgraziati che operano indipendentemente. O qualche paio di cinture esplosive in posti pubblici. C'è un'altra AP, Simone, che dice: l'intelligence irachena sempre afferma che ci sono altri 3 attentatori suicidi pronti a colpire, che compiranno un altro attacco senza precisare i possibili obiettivi. Allora, grazie anche a Lorenzo Vidino, il direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University, e noi torniamo tra un minuto. La versione di Oscar, speciale Bruxelles. Eccoci qui tornati in studio, Oscar Genio e Simone Spezia, in questa lunga fila di speciali per tenervi sempre informati delle nuove notizie, dei nuovi particolari che emergono in merito agli attentati di Bruxelles, conto delle vittime e dei feriti. Simone, gli ultimi aggiornamenti? Sì, quasi per paradosso, mentre tu davi la notizia che secondo queste fonti di intelligence irachene ci sarebbero ancora 3 persone pronte a colpire, sarebbero a piede libero e non si sa quando colpiranno, nello stesso momento il centro di crisi belga ritirava via Twitter la raccomandazione a rimanere a casa o a scuola o in ufficio, malgrado rimanga l'allerta massima a livello 4. Dal punto di vista operativo, sempre da fonti di intelligence, in questo caso americane, arriva la notizia che oltre agli attentatori suicidi quasi certamente è detonata almeno una bomba in una valigia, e questa bomba in una valigia, in questa valigia ci sarebbe stato, oltre all'esplosivo, anche dei chiodi per potenziare l'effetto. Oltre a questo, ci sono le forze di sicurezza belghe avrebbero trovato una serie di ordigni inesplosi all'interno dello stesso aeroporto. Per chiudere, vi riporto all'Italia, perché c'è stato un allarme durato veramente pochissimo tempo per un bagaglio abbandonato al Terminal 3 di Fiumicino. Gli artificieri l'hanno fatto brillare, girano le foto su internet, conteneva abiti per bambini. E vabbè, non è la giornata per dimenticarsi le valigie in giro, naturalmente, perché è ovvio che i livelli di sicurezza sono saliti. E con noi Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e editorialista del Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi, professor Parsi. Grazie, buongiorno a tutti. Due domande secche. La prima è che sono passati 12 anni dalle morti di Madrid, e 12 anni dopo noi siamo, devo dire, riscopriamo ogni volta quello che poi i politici dicono all'indomani: siamo in guerra, tranne poi la difficoltà di articolarla davvero, una guerra così asimmetrica di fronte ai foreign fighters, che, lo abbiamo sentito prima, centinaia sono in Europa, non riusciamo bene ancora a metterne a fuoco davvero la portata della loro cooperazione, delle loro reti logistiche e così via. Prima questione. Seconda questione: se guardiamo le reazioni prevalenti sui social italiani, non sono statisticamente attendibili, lo sappiamo, però la cosa incredibile è che questa volta, di fronte a un attentato al cuore dell'Europa, ci sono migliaia di reazioni italiane che sono ispirate al "ma basta con l'Europa, ma usciamo, i tedeschi, i francesi, eccetera eccetera". A me hanno molto colpito, per quel po' che vogliono dire, però vogliono dire di un'opinione pubblica che è attraversata ormai da una reazione opposta a quella della coesione europea. Ecco, queste due questioni, come la pensa? Sulla seconda, che è quella più urticante, se pensa che fino a ieri i giornali di stamattina erano pieni di retorica europearda, mm-hmm, sulle ragazze, esatto, troppo uccise nell'incidente dell'Erasmus in Spagna, dell'Erasmus, della Nuova Europa, eccetera. Tutte cose vere, però queste cose vere che riguardano una minoranza piccolissima, ahimè, della popolazione, che era la minoranza che studia all'università, tra questi quelli che vanno all'Erasmus, dall'altra parte c'è un paese che è sempre più provinciale, chiuso in se stesso, e che spera di poter fuggire dai problemi. Una volta la fuga era verso l'Europa, adesso è il contrario. Esatto, l'euro adesso è il contrario. Ed è triste, purtroppo, però, questa città, come dice lei, è un campione non rappresentativo, ma anche un campione molto libero, più libero di quello dei sondaggi. rafforza un po' il pregiudizio nei confronti degli italiani di un popolo poco disposto a solidarizzare e a condividere i rischi delle attività, diciamo così, orientate a un bene comune, un interesse generale che non sia proprio particolare. È come se il familismo italiano riemergesse sempre rispetto all'universale, la famiglia verso la società verso lo Stato-Nazione, l'Italia verso l'Europa. C'è sempre un più piccolo verso cui scappare. Sì. Del resto non si spiegherebbe il successo di gente come Salvini, altrimenti. E dall'altra parte invece ha ragione, cioè la difficoltà delle istituzioni europee, dei governi europei a confrontarsi col fenomeno della guerra. Noi abbiamo, diciamo così, in qualche modo allontanato la minaccia del terrorismo islamista attraverso la distruzione di fatto della rete di Al-Qaeda in gran parte del territorio in cui Al-Qaeda era radicata. È stato l'insuccesso di Al-Qaeda a far rinsecchire la rete, diciamo così, di Al-Qaeda presso la diaspora di mondo arabo-islamico che sta in Occidente. Oggi dobbiamo fare la stessa cosa, però ci stiamo dimenticando la lezione. Anche cioè, se però ISIS è più organizzata, perché poi a fondarla sono stati ex colonnelli e alti ufficiali del regime battista di Saddam, oramai da quello che sappiamo. Sono loro che hanno impresso una capacità organizzativa verticale che quelli di Al-Qaeda si sognavano. Questo non c'è dubbio, è proprio questo punto che lei solleva, cioè l'innesto di queste capacità, diciamo, operative degli alti ufficiali di Saddam Hussein, superò un ceppo ideologico che resta saldamente nelle mani di al-Baghdadi, certo. Non ho mai dimenticato dei suoi successori. Quindi c'è l'innesto tra una tecnica non islamista, per così dire, dentro però un contenitore ideologico islamista. E lei mi insegna che tra tecnica e ideologia, storicamente prevale sempre l'ideologia, E l'ideologia che plasma la tecnica, mai il contrario. Purtroppo il Novecento europeo lo ha dimostrato al mondo, ne sa qualcosa. Esatto, ma noi ci dimentichiamo la nostra storia, come ci dimentichiamo la rilevanza estrema del fenomeno dei fiancheggiatori. Il terrorismo delle Brigate Rosse degli anni 70, di prima linea e compagnia cantante, poté radicarsi, fu così difficile da debellare fino a quando non venne colpito il mondo dei fiancheggiatori in maniera anche molto drastica. In maniera anche parlo molto della legge reale. La legge reale, i metodi usati dal generale, dalla Chiesa e dai suoi, le cose che naturalmente sollevarono anche un'enorme reazione in Italia, perché si discusse per anni fino a che poi insomma non cambiarono tutti idea dopo l'assassinio di Guido Rossi. Ma questa reazione, le istituzioni dello Stato e la società nel suo complesso fu molto ferma nel non spaventarsi. Siamo molto più timidi rispetto alla preoccupazione che un atteggiamento di analoga fermezza verso il mondo che il giorno dell'arresto del terrorista a Bruxelles protestava contro i giornalisti e le forze dell'ordine. Siamo molto più timorosi di usare metodi più rigorosi, più fermi contro questo mondo, perché temiamo, si fa così paura perché non lo conosciamo. Siamo spaventati completamente, temiamo di finire nel girone di Le Pen e di questa brutta compagnia. Perché quella ideologia la conosciamo meno di quelli invece la cui ideologia conosciamo bene, perché era intrecciata all'evoluzione della nostra storia. Questo è il punto di fondo. Solo che la paura ci porta a perdere, questo è quello che temo io. Questo non significa mandare i bombardieri, significa semplicemente avere l'idea che chi oggi, secondo me, dice fuggiamo dalla responsabilità comune, colpa della Merkel, colpa dei francesi, eccetera, eccetera, secondo me fa esattamente il gioco di chi vuole questo. E allora io posso solo ringraziare il professor Parsi, ringraziare Simone Spezia e passare il testimone agli altri colleghi che continuano negli speciali per informarvi sugli sviluppi di questa tragica giornata di un conflitto che dura da 12 anni. Continuate su Radio 24.